L'essenza industriale di Veda Minevria, di meccanicismo mistico. Volo tra i sogni corrotti tra i quali mi annebbio oscuro il presente. Preferisco crogiolarmi in quel senso di sonno di un'estate già finita e putrefatta. Quel senso di sonno che prosegue non demorde a farmi oscillare tra la veglia e l'oblio. Raffiche di case e di personalità ignote scorrono veloci, turbando il mio spirito di osservazione che si lascia trasportare. Quel senso di confusione. Io pesantemente, scontrandomi visivamente per un cartello intaccato, dice sano moderno, la nostra vita è un viaggio a senso unico che non ritorna mai e poi mai indietro, mai e poi mai ci si potrà bagnare nello stesso fiume in quanto tutto scorre. Le percezioni progrediscono. Raffiche di case e di personalità ignote scorrono veloci, turbando il mio spirito di osservazione che si lascia trasportare da quel senso di confusione.